Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Non ci sono dubbi. Venire a conoscenza di falsi altrui, ascoltando i discorsi in strada, in auto, in cucina, al cesso, a letto o al bar, dove due o più persone chiacchierano di cose loro, ha sempre provocato un enorme orgasmo a chi pensa di ascoltare senza essere scoperto. Allora per strada potete seguirci ed ascoltare sulla lista della spesa che faremo per pranzo, in cucina cosa cucineremo o cosa mangeremo, al cesso ascolterete le trasformazioni in suoni di quello che voi siete in materia fisica, A letto ci ascolterete mentre si tromba e al limite vi masturbate, perché non potete stare a letto con la vostra moglie in quel momento. Ma tranquilli, può darsi che vostra moglie si diverta lo stesso, se non con voi, con qualcun altro. Al bar potete ascoltarci sulla scelta della birra che berremo, ma state pur certi che non nasconderemo mai il nostro orgasmo quando interromperemo il vostro, causandovi forti dolori emorroidali. Radiazione 8 febbraio 2013, ultima puntata di Radiazione, l'ultima, ma l'ultima diretta che va in onda alle 16, infatti anticipiamo questa cosa, la ripeteremo più volte durante la diretta, che praticamente da lunedì gli orari di Radiazione metteranno l'ora legale, praticamente invece di fare l'orario 16-18 si farà 17-19. Questo anche a causa dei nostri motivi personali, ci abbiamo da fare. E allora, abbiamo letto una piccola introduzione all'inizio della diretta d'azione, e praticamente è un po' il succo di quello di cui poi si andrà a parlare durante la diretta. Allora, ricordiamo innanzitutto gli indirizzi per Radiazione, radiazione@autistici.org, per chi vuole mandare mail, comunicati, locandine, manifesti, iniziative, anche consigli per la radio, insomma, radiazione@autistici.org. Invece per il blog, dove potete trovare tutte le notizie che si ascoltano, leggiamo anche in diretta su Radiazione, durante le dirette d'azione sia lunedì che venerdì, le trovate in modo più approfondito, anche le potete anche rileggere, visto che molto spesso alcuni nomi io li mastico male, specialmente quando sono nomi che arrivano da paesi tipo la Grecia. Non è colpa mia, non ce la faccio, io ci metto l'impegno. Allora, sul blog, dicevo, a parte sta stronzata, potete trovare sia le notizie, i comunicati, quelli che si leggono durante le dirette d'azione, ma potete anche riascoltare le dirette d'azione precedenti. Infatti da un paio di settimane c'è la nuova categoria sul blog di Radiazione, la trovate in home page, ci sono le categorie sotto la scritta Radiazione, e c'è ascolta le dirette d'azione, là trovate tutti i podcast delle dirette d'azione. Cosa dire più? Allora, non oltre alle dirette d'azione, però potete anche scaricarvi opuscoli attraverso il blog, c'è la sezione download, opuscoli, libri, tutto quello ci danno o abbiamo a disposizione da farvi scaricare, lo si mette a disposizione. Poi ci sono video, ci sono un po' di link di compagni che hanno altri siti e blog che bene o male con cui siamo affini, insomma. Il blog di Radiazione è radiazione.onoblogs.org, per ascoltare la diretta, la state ascoltando. Ma comunque, per non accedere, se non volete accedere direttamente dal link e arrivare alla radio, passate per il blog, pigiate su banner e vi si appiccia alla radio. Vi ricordo, accendetela solo il lunedì e il venerdì. Fino ad ora dalle 16 alle 18, invece dal lunedì prossimo dalle 17 alle 19. Ora ci ascoltiamo un altro brano, i Chrome con il brano Stalker. Si aspettano questi ultimi 5 minuti, come al solito, per partire con la diretta d'azione. Diamo tempo a chi c'ha da fare, a chi accende la radio più tardi, di ascoltare un po' tutto quello che ci abbiamo da dire oggi. Chrome è il brano è Stalker. Come on. Questi erano il Chrome con il brano Stalker. Stalker perché? E perché ora ne parleremo subito. In quest'ultima settimana, ultimi 10 giorni, praticamente qui a Napoli sono state trovate in tutto una decina di microspie. E se si vogliono sommare con quelle che poco più di un mese fa sono state trovate all'interno sia del Circolanacchio 76A e al Centro Studi Libertari Louis Michel, il numero sale enormemente, si arriva in tutto finora ad un 13-14 microspie scoperte. Fatevi bene i conti e vediamo, capite bene quando ci hanno rimesso sti bastardi che gli piace ascoltare le discussioni altrui. Leggiamo ora leggo il comunicato, quello là del 6 febbraio, praticamente 2 giorni fa, e praticamente durante uno dei controlli di routine dell'auto di un compagno, il compagno trovava dietro le luci, praticamente tirando giù il coperchietto dove ci sono le luci, quelle sopra lo specchietto retrovisore, un enorme cablaggio che sarebbe stato un po' superfluo ad accendere la micro lucetta che c'è all'interno. Appena scoperta l'opera d'arte, da dietro è arrivata un'auto in borghese con a bordo di loschi figuri. Raggiunto un posto tranquillo e dove c'erano altri compagni, si è proceduto a far rodere il culo a quei loschi figuri che a 5 metri, praticamente a 5 metri di distanza, parcheggiati dietro, hanno solo potuto assistere a che fine faceva quel cablaggio sospetto, che consisteva in due ricetrasmettitori satellitari corredati di microfoni, un rilevatore satellitare corredato di antenne, due schede Vodafone. Il tutto posizionato, lo ripeto, sopra, cioè praticamente. Ora vi do un consiglio: quando entrate nella vostra auto, se volete trovare l'orecchio nascosto dello sbirro, uno dei posti da dove andare a guardare è praticamente la lucetta, quella che sta proprio sulla vostra testa, quella che accendete per trovare le chiavi, la moneta, le sigarette, quella lucetta là. Tirate giù il coperchietto e vedete se ci sono i due fili che collegano alla lampadina, va bene, è tutto a posto. Se iniziate a guardare cose sospette, matasse di fili, matasse di cavi e un po' di quel pongo nero che serve praticamente per fissare il microfono sul tettuccio, tirate giù tutto, smantellate l'auto e strappate tutto quello che è superfluo. E quello che è capitato a Napoli, nell'auto di questo compagno, sul blog di radiazione potete scoprire attraverso le foto cosa c'era nascosto dietro quella micro lucetta. Invece si aspettano conferme, cioè più che altro conferme sulla quantità di microspie che sono state trovate a casa di altri compagni, sempre qui a Napoli. Microspie che erano posizionate un po' dappertutto, dietro ai letti specialmente, e questo era anche all'inizio l'introduzione della diretta d'azione oggi. Questa porcata enorme di mettere la microspia dietro al letto, boh, non lo so. Vabbè, nelle prese elettriche, quindi. Dopo, ora ci ascoltiamo un brano, daremo altre notizie, altri comunicati, e poi dopo vi spiegherò un pochino meglio come andare a cercare un po' di microspie che sono nascoste normalmente in casa. Ora ci ascoltiamo il brano dei Decay.com, il brano è Fuck You, e lo dedichiamo all'orecchio bastardo dello sbirro. Allora, questo era tutto dedicato a chi ascolta nella quotidianità le nostre discussioni, le nostre anche trombate, i cazzi nostri. Allora, erano dk.com e brano Fuck You, per chi non l'avesse capito, dice solo quello il pezzo. E allora, visto che qualche giorno fa siamo stati un po' accusati, lo mettiamo tra virgolette, di leggere solo guai, solo sfighe, oggi partiamo con una due buone notizie, così ci rifacciamo subito. Io vorrei leggere sempre buone notizie, vorrei leggere sempre di questure che crollano, carceri incendiati, azioni a raffica, però se non ce ne so tocca leggere l'altra cosa, le sfighe, che purtroppo molto spesso superano il numero delle azioni. Allora, oggi partiamo meglio rispetto all'ultima diretta, perché si leggono un paio di azioni subito, così ci facciamo subito la bocca alla faccia degli sbirri. Praticamente la prima ci arriva da Palermo, la prendiamo dal blog dei compagni di Corda Tesa. E praticamente si apprende che il 22 gennaio scorso un cane da guardia, o se lo volete chiamare secondino, del carcere Pagliarelli di Palermo ha ricevuto all'interno dello stesso lager un pacco personale. Avrà pensato, leggendo il mittente, che fosse il classico regalo da parte del sindacato della polizia, che di solito regala agente per il nuovo anno. Così ha deciso di aprire il pacco a casa sua. Una volta aperto il pacco, ha notato però che invece dell'agendina c'era un dispositivo che purtroppo non ha funzionato, perché si era scaricata la batteria. Infatti, praticamente è venuto a conoscenza che non è solo il sindacato di polizia a pensarlo, ma c'è molta gente al di fuori delle carceri che pensa sia a lui che ai suoi colleghi. E questa era per quanto riguarda la notizia che arriva da Palermo. Invece, ad Atene, in Grecia, c'è stato un sabotaggio di telecamere a circuito chiuso e ai bancomat. Leggiamo direttamente il testo che, della rivendicazione, che rientra nel periodo del febbraio nero, di questa chiamata per il febbraio nero. Praticamente il testo dice: nelle prime ore del 6 febbraio abbiamo fatto una passeggiata per le vie del centro di Atene, in modo da dipingere slogan anarchici sui muri e fare qualsiasi altra cosa ci venisse incontro. Tra l'entusiasmo abbiamo accecato tre telecamere di sorveglianza delle filiali della banca Agrotiki e della Banca Nazionale, ed abbiamo incasinato anche i loro bancomat. E alla fine il comunicato finisce con lo slogan: libertà per i quattro ostaggi del caso Cosani, per Freddy, Marcello, Juan in Cile, per Marco Kamenisch, che non dobbiamo lasciare invecchiare dentro le carceri svizzere. Ecco, ora ci siamo fatti la bocca, abbiamo letto un paio di azioni, così non nessuno ci dice che leggiamo solo sfighe, ed ora ci andiamo ad ascoltare Robotnica, il brano è L'Espoir. Yeah. E questi erano Robot Niga, il brano L'Espoir. Allora, avevamo fatto qui dalla radio più di una volta nelle scorse settimane l'invito ai compagni di cominciare una raccolta di fondi per i compagni detenuti, perché ci sono molti compagni, specialmente per quelli riguardanti l'inchiesta Ardire, che sono un po' incasinati economicamente, hanno bisogno di spese, di dare soldi per le spese legali, ci sono dei tecnici che devono sbobinare le intercettazioni, un po' tutto quello, cioè sbobinare tutto quello che gli inquisitori hanno mostrato come prove. Quindi servono dei soldi, l'invito ancora a chiunque ne abbia la possibilità di fare quante più iniziative benefit possibile. Allora, fortunatamente dalla Sicilia ci arriva una buona notizia, perché praticamente è nata una cassa antirepressione sud. Noi ci leggiamo direttamente il manifestino, la presentazione della cassa. La Cassa Antirepressione Sud nasce dalle esigenze di alcune individualità anarchiche siciliane di raccogliere fondi a sostegno dei prigionieri, esprimere solidarietà agli stessi e inviare a chi finisce in galera contatto e appoggio da parte di gruppi o persone sensibili alla questione carcere. L'esigenza nasce anche dopo le molteplici operazioni repressive dello Stato, che hanno colpito molti compagni in tutta Italia durante l'ultimo anno, e si inserisce in un più ampio progetto che mira non alla riforma del sistema carcerario, ma alla sua distruzione e alla distruzione del sistema che lo produce. Consci del fatto che solo un appoggio economico non possa bastare, un ribaltamento di questo sistema può solo avvenire attraverso una lotta radicale contro il carcere che abbracci tutte le pratiche dell'azione diretta. Il 13 giugno l'operazione Ardire dei ROS e la Procura di Perugia, con 8 arrestati e 21 indagati in Italia, Germania e Svizzera. L'8 agosto l'operazione Mangiafuoco dei ROS e della Procura di Bologna, con 21 indagati. Il 27 agosto l'operazione Loxodidae, portata avanti da Digos e Procura di Trento e Rovereto, con 2 arresti e 43 indagati. Il 1 settembre l'operazione Tor con 6 indagati nei dintorni di Ravenna. Il 14 settembre a Torino 2 compagni anarchici vengono arrestati e un'altra compagna indagata in merito al ferimento dell'amministratore delegato del lanzato nucleare Roberto Di Norfi. Per chi vuole scrivere e mandare soldi alla cassa, non li leggo qui in diretta, può andare sul blog di Radiazione e trovare tutti gli indirizzi utili per mandare i soldi alla Cassa Antirepressione Sud. Lasciamo solo il contatto della cassa, che è Cassa Antirepressione Sud tutto attaccato, chiocciolina@gmail.com. Poi se vedete sul blog c'è come ricaricare sia sulla Postpay che o attraverso PayPal. Poi ci sono anche gli indirizzi dei compagni detenuti, e poi c'è anche un blog, hanno formato anche il blog che potete trovare sotto nella pagina di Radiazione, blog di Radiazione, in fondo ci sono dei link, c'è Cassa Antirepressione Sud, ci cliccate sopra e vi lancia direttamente al blog della cassa in sostegno dei compagni. E allora, rinnovo ancora l'invito, fate quante più iniziative benefit possibile. A Napoli, infatti, venerdì prossimo, il 15, alle 18.30, alla mensa occupata della Facoltà di Lettere e Filosofia, si terrà un'iniziativa benefit per Marco Kamenisch. Ci sarà una mostra, la mostra quella messa a disposizione dei compagni delle Alpi Occidentali, ci sarà un'altra mostra sul nucleare, ci sarà una discussione, anche perché all'interno della mensa occupata della Facoltà di Lettere comunque ci sono un altro gruppo di studenti che comunque forse non conoscono nemmeno il compagno Marco Kamenisch. Si cercherà un po' di fare anche, cioè chi avrà voglia farà un intervento, chi può dire, raccontare un po' la storia che è stata quella di Marco, insomma ci sarà questa discussione. poi dopo la discussione ci sarà una cena benefit, una cena benefit i cui soldi andranno o a Marco se ne ha bisogno o andranno agli altri compagni che stanno in galera o molto tranquillamente andranno alla cassa antirepressione sud. Ora ci ascoltiamo The Sister of Mercy, Body Music. Erano The Sister of Mercy, Body Electric. E allora ora si va in Grecia con il prossimo, con la prossima notizia di Controinfo. E praticamente è un aggiornamento sull'arresto dei quattro compagni avvenuto il 1 febbraio I Tefebaio, gli anarchici Dimitris Politis, Yannis Michailidis sono stati portati davanti al pubblico ministero presso il Tribunale di Atene per quanto riguarda i mandati contro di loro sul caso CCF. Il 4 febbraio invece sono stati portati al Tribunale Speciale di Korydallos durante la 25esima sezione del processo contro le CCF. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Korydallos, dove sono imprigionati pure membri della cospirazione delle cellule di fuoco, le CCF, per chi non lo sapesse. Dal 5 febbraio tutti e quattro i compagni accusati del caso della rapina in banca a Verventos Kozani, vale a dire Dimitris Politis, Yannis Michailidis, Nikos Romanos e Andreas Dimitris Bulzukos, gli ultimi due non sono stati ufficialmente spariti però finora, sono stati portati a Kozani, dove il 6 del mese dovranno attendere un'altra udienza dal tribunale locale. E questo era per quanto riguarda l'aggiornamento dei quattro compagni arrestati il 1 febbraio ad Atene, a Kozani. Invece dopo il brano che ci andremo ad ascoltare tra poco, leggeremo un comunicato delle CCF, dei compagni delle CCF, quelli che già sono in carcere da bel po', che parlano proprio in base di questi quattro arresti, dicono un po' la loro. È un testo alquanto carino. Allora, prima ci ascoltiamo un brano degli Atemai con il brano Eternal Torture e poi dopo si torna qua, ci leggiamo questo lungo comunicato. Ovviamente le CCF non ci fanno mai mancare la lunghezza dei comunicati, però fortunatamente sono comunicati che ne vale la pena leggere. Allora, Etemai, il brano Eternal Torture, e dopo si torna e si legge il comunicato delle CCF. Couldn't eternal torture lasts forever. E questi erano Edemai con il brano Eternal Torture. Allora, prima abbiamo dato gli aggiornamenti sui quattro resti di Kozani, ora invece ci leggiamo, come preannunciato, il comunicato dei compagni delle CCF, esattamente da Atene, cioè praticamente ho comunicato letto, scritto dai compagni all'interno del carcere. Allora, leggiamo direttamente il comunicato senza fare cappelli, perché non ce n'è bisogno, come al solito. Questo è il comunicato del CCF. Se parliamo, parliamo perché non abbandoniamo la cospirazione delle cellule di fuoco nella fogna della propaganda dello Stato. Per la rapina in banca della ragione di Kozani, gli unici ad avere la parola esclusiva sono gli stessi arrestati, i quali non sono membri della cospirazione. Dopotutto, con questi arresti non è stata colpita la cospirazione ed entrambe le nostre percezioni e i nostri nuclei rimangono illesi. Ma dal momento che la macchina della propaganda dello Stato si riferisce costantemente alla cospirazione, chiariamo la nostra posizione. I guerrieri urbani anarchici abbandonano il ruolo della vittima per prendere una posizione come aggressore contro il silenzio passivo della società. I guerrieri anarchici non sono né bravi ragazzi e nemmeno hanno bisogno di difesa dagli ipocriti dell'umanità e dagli appaltatori della sensibilità della sinistra. Sappiamo che la violenza anarchica contro il regime è l'unica strada verso la liberazione. Coloro che sono riluttanti ad armarsi si riveleranno vigliacchi per vivere con dignità, lontano dalla retorica umanitaria e dalle lacrime di coccodrillo. I volti dei detenuti picchiati sono state attaccate delle scelte specifiche. La scelta di una rapina in banca con lo scopo del rafforzamento dei nuclei anarchici illegali e aformalisti è stata e sarà una pratica anarchica. Nella guerra contro lo Stato e la società non si chiede pietà al nemico. Gli anarchici della prassi non rispettano alcuna legittimità civile. Il punto non è quello di parlare di un'arbitraria violenza della polizia, ma di passare per primi all'attacco qui ed ora. Inoltre, la vita appartiene sempre ad un certo tipo di persone, le persone di azione. Forza ai quattro prigionieri anarchici processati per la rapina a Kozani, sosteniamo che coloro che sostengono le loro scelte e rimangono impenitenti, creiamo e organizziamo 10, 100, 1000 nuclei di cospirazione. Vive la Federazione Anarchica Informale, FAI-FRI, Fronte Rivoluzionario Internazionale, tutto continua, i membri incarcerati delle CCF. E poi alla fine, con un post-scriptum, inviamo la nostra solidarietà con tutto il cuore ai nostri compagni Alfredo Cospito e Sergio Maria Stefani, ai quali la magistratura italiana vieta i colloqui, e all'amico scioperando della fame dal 4 febbraio, Spiros Dravilas, al quale il sistema penitenziario greca vendicativamente gli ha privato le uscite. Poi sotto il comunicato, se andate sul blog di Radiazione, sotto il comunicato c'è una nota di Radiazione. Praticamente i due compagni italiani, Alfredo Cospito e Sergio Maria Stefani, non è che gli sono stati negati i colloqui, ma è stato solamente negato il colloquio con le rispettive compagne. Infatti nemmeno nell'ultima diretta d'azione abbiamo letto il comunicato dei compagni che ci avvertivano di questo sciopero della fame e il perché. Allora, ora ci ascoltiamo prossimo brano, Coptic Rain, il brano Have to Eat. Poi torniamo qua e si vede che notizia darvi. Yeah. stesso. E loro erano Captain Rain, brano Hate to Hate. Allora, ricordiamo innanzitutto che oggi è l'ultima volta che Radiazione va in diretta dalle 16 alle 18. Dal lunedì prossimo gli orari si cambieranno, si sposterà un'ora in avanti, metteremo noi l'ora legale, la legalizziamo noi l'ora. Non ce la facciamo legalizzare da nessuno. No, a parte che ci fa proprio schifo il termine legale, diciamo direttamente che spostiamo l'ora, un'ora in avanti dalla diretta d'azione, sia quella del lunedì che quella sia quella del venerdì. Quindi dalla prossima settimana le dirette d'azione andranno in onda dalle 17 alle 19 anziché dalle 16 alle 18. Comunque su blog troverete gli orari e i giorni come al solito. Ora si va in Indonesia per leggere una notizia un po' brutta. Chi non vuole ascoltare le notizie brutte si tappasse le orecchie, però questa c'è poco da ridere, cioè, anzi diciamo che non c'è un cazzo da ridere, perché riguarda la morte di un compagno di Negasi, il blog anarchico indonesiano che veniva portato avanti sia da questo compagno che da altri compagni. Allora, questa è una notizia che comunque si sapeva già da un po' di tempo, si aspettavano un po' di conferme, si sapeva già dai primi di dicembre che era stato ammazzato sto compagno in Indonesia, però purtroppo con tutti gli altri compagni, in particolare i compagni indonesiani, si è aspettati un attimo per avere un po' tutte le conferme del caso, perché non si capiva a Rio come fosse morto, e allora si è aspettato un pochino e dopo è ora c'è la notizia, cioè ora è già da qualche giorno che c'è la notizia sul web. Arriviamo direttamente al comunicato che arriva dai compagni indonesiani. Allora, per tutti i compagni, il 25 novembre 2012 abbiamo saputo che il nostro compagno di nome Rio è stato ucciso da un viacco al mattino mentre tornava al suo posto di lavoro dopo aver fatto colazione. Rio è un membro attivo della prima generazione del progetto di controinformazione di Negasi, la traduzione e la pubblicazione per sostenere il movimento antiautoritario a Manado. Rio è stato attivo ed anche coinvolto nelle lotte locali autonome del Nord Sulawesi. Ha preso una posizione come attivista e pubblicando informazioni relative alle lotte. Testardo ma umile, è stato sempre il primo a prendersi cura dei problemi dei compagni. Rio ha lasciato una moglie e un figlio di 4 anni. In questo momento abbiamo bisogno di solidarietà dei compagni all'estero per la moglie e il figlio. Per noi moglie e figlio del nostro compagno sono anche i nostri compagni e come una forma di solidarietà diretta ci alziamo in piedi accanto a lei. In questo momento la moglie deve affrontare gravi condizioni di salute ed è stata alcuni giorni in ospedale. Le pressioni sociali, per lo più sulla stampa locale relative al caso, sono state uno dei motivi per cui la nostra compagna è finita in ospedale. D'altra parte il processo contro l'assassino sta procedendo in tribunale, ma noi siamo contro la giustizia e non rispettiamo il fatto che un giudice possa rendere giustizia al nostro compagno. La vita del nostro compagno non può essere sostituita mandando qualcuno in prigione, perché noi siamo contro tutte le forme di prigione. Noi crediamo sempre che la giustizia non deve essere delegata allo Stato di cui siamo nemici. Noi crediamo che la giustizia è solo la solidarietà diretta e la morte dei nemici. Per le lettere di solidarietà e fondo di solidarietà o semplici informazioni ulteriori è possibile inviare una mail a negasi@riseup.net. Solidarietà diretta contro la giustizia dello Stato, nessuna prigione ma solo prigioni che bruciano. Ex membri di Negasi. E poi sotto c'è la data praticamente di nascita e morte di Rio, che è nato nel 1986 e è morto nel 2012. È membro, a fianco c'è scritto un membro attivo di Negasi. I nostri compagni in Indonesia continuano la lotta, una nuova formazione di Negasi invece, infatti ha chiamato il nuovo blog Asimmetris. Per chi vuole arrivarci sia da blog di radiazione, è praticamente sotto la notizia che sto leggendo ora, c'è scritto come arrivare, praticamente c'è già il link, basta pigiare su asimmetris.noblogs.org, ci pigiate sopra e vi butta direttamente nella pagina del nuovo blog dei compagni indonesiani. Il comunicato finisce anarchia, amore e guerra. Invece diamo un aggiornamento che è appena ora arrivato, praticamente è che Nissa, la moglie del compagno Rio che abbiamo appena detto che è morto a novembre, è tornata a casa. Ricordo che lei aveva tentato un suicidio perché comunque un po' la morte di Rio, un po' l'accanimento della stampa infame, comunque l'avevano portata a una forma di depressione, praticamente era arrivata a questo tentativo di suicidio, è stata tenuta in ospedale dove ha dovuto avere delle trasfusioni di sangue, però ora si viene a sapere dai compagni di Asimmetris e di Negasi praticamente che Nissa è tornata a casa. Leggiamo direttamente la mail come è arrivata. Abbiamo ricevuto un messaggio dai nostri compagni che hanno preso a casa Nissa, infine che è uscita dall'ospedale. La solidarietà finanziaria che è stata raccolta per la sua attiva e pagamento del conto dell'ospedale e i farmaci con un po' a sinistra oltre a sostenerla. Insomma, cioè praticamente c'è stata un po' di solidarietà attiva da parte dei compagni a sostenere la compagna. E praticamente è stato. Non ve la leggo tutto perché non è una cosa da pubblicare. Praticamente manda gesti d'amore a tutto il mondo Nissa, manda a tutti i fratelli e alle nuove sorelle che ha scoperto in questo momento e praticamente vabbè, niente, ringrazia tutti, fortunatamente sta bene Nissa ora e finisce, niente, è finito, tutto continua con statisti, amore e rispetto per tutti i compagni, con la rabbia e fuoco ai nemici. Ora, dopo questo brano, ci andiamo ad ascoltare Noise Unit, il brano Hate You Feel, poi si torna qua e si legge la prossima notizia. We'll be right back. E questi erano Noise Unit con il brano If You Feel. E allora ora invece si passa da una parte all'altra del mondo, dall'Indonesia si arriva in Cile. Ci abbiamo un paio di notizie da dare riguardo alle varie inchieste che sono in corso là nei confronti dei compagni cileni. Praticamente il 27 dicembre 2012 la procura ha chiuso le indagini nei confronti dei due compagni Carla ed Ivan, Carla Verdugo e Ivan Silva. Il 7 gennaio invece i pubblici ministeri hanno deciso di presentare 25 testimoni, 17 esperti, una relazione delle visite di Juan Aliste, il compagno di Carla, insieme alla documentazione anarchica che era stata sequestrata, compreso comunicati internet in solidarietà con i compagni detenuti. L'accusa ha chiesto una condanna a 5 anni e un giorno per entrambi i compagni, che sono accusati di attacco terroristico. Per giustificare la classificazione del presunto reato e a sfondo terroristico, i PM fanno riferimento ai legami tra Carla in particolare ed Ivan con i compagni processati per il caso Security. Carla Verdugo e Ivan Silva sono stati arrestati, lo ricordo, il 17 aprile 2012 ed hanno sempre rifiutato di collaborare con la giustizia attraverso riti abbreviati. Ed è praticamente la notizia del 5 febbraio che praticamente la Corte Garante di Santiago ha confermato sì le misure preventive nei confronti dei compagni Ivan e Carla, ma la stessa Corte poi ha poi disposto per i compagni gli arresti domiciliari. Ora Carla e Ivan hanno abbandonato i lager, stanno purtroppo nelle loro case, gli arresti domiciliari, case che puntualmente quando si tratta di domiciliari vengono trasformate in lager, perché alla fine la cosa brutta è che la casa dove hai sempre vissuto si trasforma in un carcere e tu diventi il secondino di te stesso. Poi ha voglia la gente, molti compagni, a dire che ha i domiciliari, gli accetti ai domiciliari, vabbè, togliamo di mezzo questo argomento perché altrimenti vi girano coglioni, basta. Fortunatamente c'è molta di questa gente, molti di questi fantomatici compagni non si fanno più sentire, non fanno leggere più i loro scritti e va bene così. Allora, gli avvocati intanto avevano chiesto per Ivan e Carla ovviamente la fine delle misure cautelative, tenendo conto anche della buona condotta dei compagni. Insomma, diamo il bentornato da qui a Carla ed Ivan fuori dal carcere e li aspettiamo fuori da tutte le misure cautelative una volta e per tutte. Invece, sempre in Cile, si hanno altri aggiornamenti, questa volta sul caso Security, che è un po' legato a quello di Carla ed Ivan, legato anche se l'abbiamo letto prima, che praticamente i magistrati che indagano su Carla e Ivan vogliono creare questa montatura, tenendo conto che uno dei compagni incarcerati per il caso Security sia il compagno di Carla. Allora, per quanto riguarda il caso Security, praticamente il 4 febbraio 2013 sono riprese le udienze ed anche questa volta l'accusa ha posto alcuni ostacoli che rallentano il processo e automaticamente causano il prolungamento della detenzione dei compagni. La strategia dell'accusa, bene o male, è identica a quella usata dai magistrati del caso Bombas. Vogliono assolutamente sia l'accusa che sia il magistrato che tutta l'accusa in generale, perché ci sono anche queste fantomatiche vittime che fanno parte dell'accusa, praticamente vogliono trovare un accordo con il giudice, altrimenti viene ricusato. Ciò significherebbe con la ricusazione del giudice ricominciare tutto da capo e praticamente i compagni si ritroverebbero con una nuova ordinanza, tutto da cominciare da capo. A marzo si dovrebbe sapere qualcosa in più se il giudice viene ricusato o meno. Intanto si manda la solidarietà con Giorridi, Freddy e Marcella Villa Royal Fontavilla. Ora ci ascoltiamo, prima di ascoltarci un altro brano invece diamo un'altra notiziaccia, l'avevamo spacciata per notizia buona perché era un suo volere, l'aveva cercato questo trasferimento, sto parlando di del comando Gabriel Pombo da Silva, praticamente per tanto tempo ha chiesto questo trasferimento in Spagna, trasferimento che c'è stato poco più di un mese fa, trasferimento che è venuto dal carcere di Haken in Germania a quello di Soto del Real a Madrid. Praticamente si viene a sapere dalla Croce Anarchica inglese, si viene a sapere notizie non buone riguardo al nuovo lager di Soto del Real, che praticamente il compagno si trova in isolamento e fino ad ora gli sono stati negati sia i colloqui che le telefonate. Conoscendo Gabriel, il suo percorso e le sue lotte, non saranno questi metodi e queste infamie a togliergli l'entusiasmo di lottare per una vita libera dove lo Stato, i suoi cani da guardia e le sue carceri saranno polvere e macerie. Per chi vuol dire la propria solidarietà con Gabriel, vi dico a voce il numero del fax del lager di Soto del Real. Sbizzarritevi, ditegli cosa pensate a questi infami. Il numero del fax di Soto del Real è 00 34 91 844 7803, altrimenti 00 34 91 844 7712. Invece, per scrivere a Gabriel, l'indirizzo per Gabriel: Gabriel Pombo da Silva, centro penitenziario Madrid 5, quinto, con numero romano 5, quinto, quindi Soto del Real, CP 28770 AC 200 Madrid, Spagna. Comunque lo potete andare a lire e rileggere sul blog di redazione, sia i numeri di fax che il numero su Gabriel Pombo da Silva. Allora, mandiamo un altro brano, loro sono She Passed Away e il brano è Casuesli Kutlama. We'll be right back. E questi erano la band turca Ship Away con il brano Kasvetli Kutlama, o almeno spero di averlo letto bene, è turco. Allora, andiamo con la prossima notizia, una breve, che praticamente la leggiamo direttamente da informazione, perché non è arrivata la redazione, quindi quando non arrivano qua si vanno a leggere da altri siti, da altri blog. Oggi il comunicato dice oggi 6 febbraio, praticamente l'altro ieri, il surriscaldamento di una stufa elettrica ha provocato un incendio all'ultimo piano di Villa Panico, domato dai pompieri, nonostante numerose insistenze da parte dei vigili del fuoco e della municipale, abbiamo rifiutato di abbandonare il posto. Pochi gli spiriti presenti, moltissimi solidali a dare un occhio e una bella mano. Siamo tutti bene e Villa Panico è sempre in mano nostra. Un grazie di cuore a quanti si sono mossi e ci hanno aiutato. Senza di voi poteva finire peggio. E conoscete i compagni di Villa Panico, sono contento anche io che tutto sia finito bene e che il posto sia rimasto a loro. Invece per la prossima, un'altra notizia di Contrainfo, abbiamo letto poco fa le notizie relative al caso Security, al caso di Carla Divan in Cile. Ora non vi leggo la rivendicazione, il testo rivendicativo, vi faccio un sunto bene o male di questo testo, che parla, rivendica un attacco in solidarietà con un po' di compagni a Santiago del Cile. Praticamente nella settimana tra il 28 gennaio e il 3 febbraio sono stati attaccati dei beni appartenenti alla gendarmeria del Cile, che si trova sulla strada San Francisco prima di arrivare a Avenida Matta. Che praticamente questi beni appartenenti si trovano accanto al carcere minorile Sename, e a pochi isolati praticamente dove è morto anche ucciso in un'azione anarchica il compagno Maurizio Morales nel 2009. L'attacco è un attacco con ordigno incendiario, i compagni che hanno fatto questo attacco mandano saluti un po' a tutti i compagni detenuti in tutto il mondo, a Marcello, a Freddy, a John, a Alberto, a José in Cile. Mandano saluti anche ai compagni, alla compagna Felicity, che è la ditante, a Diego Rios, a Hans Niemer, poi anche al compagno in Bolivia, Braulio e Braulio Henry. Allora, praticamente forza dalla Bolivia e Braulio Henry Messico, praticamente Braulio sarebbe Braulio Duran e Henry Zagarrundo. Poi salutano i compagni italiani Sergio Maria Stefani e Alfredo Cospito, i compagni greci, in particolar modo il compagno Panagiotis Agirou, il compagno che praticamente la notte di Capodanno è caduto dalla branda della sua cella, ha avuto un trauma cranio, un po' di problemi, ora sembra che si stia rimettendo in forza, noi speriamo che si torni forte come prima anche a Panagiotis. E poi mandano anche saluti ai quattro arrestati della rapina di Guzzani che abbiamo letto prima. Insomma, saluti a tutti i detenuti. Poi questa ve la sto leggendo così in spagnolo, poi dopo con un po' di tempo si traduce e la metteremo anche sul blog di radiazione, così si potrà leggere sia lunedì che la potete leggere voi da soli. La rivendicazione finisce con lo slogan per la liberazione totale, guerra sociale, cellula insurrezionale anti-autoritario Panagiotis Agirou, Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale Cile. Allora, ora ci ascoltiamo ancora un altro brano, poi si torna qua e si inizia a spiegare un pochino che sono queste macchinette che puntualmente vengono ritrovate nelle auto nelle prese elettriche, nelle ciabatte elettriche, dietro al letto, nell'orsacciotto che qualcuno ha sul lettino, l'orsacciotto, il bambolotto, la bamba, cioè, capita, no? Qualcuno può averci un pupazzo a cui è affezionato e non sa che quel pupazzo a cui è affezionato e con cui è cresciuto da un giorno all'altro può trasformarsi in una microspia. Allora, ora ci andiamo a scontare un brano di Laibach, Transmit Laibach, e poi torniamo qua e si inizia a parlare un po' di queste cosucce di merda. Erano Laibach con il brano Transmit Laibach, l'LP What, Allora, abbiamo iniziato la trasmissione radio oggi parlando di microspie, praticamente in particolar modo della situazione qui a Napoli, dove nell'ultima settimana, in particolar modo negli ultimi due mesi, sono state scoperte all'incirca quasi una quindicina di microfoni, di microspie, se vengono sommate un po' tutte insieme. Allora, radiazione già prima dell'estate, durante qualche diretta e anche forse dopo l'estate, a settembre si era ripreso il discorso sulle microspie, avevo un po' raccontato le varie microspie, avevo raccontato un po' come scovarle, insomma, si era un po' parlato di questi aggeggi infernali che purtroppo con cui purtroppo molto spesso ci troviamo a convivere e non lo sappiamo nemmeno. Allora, l'intenzione di radiazione è quella di dare alcune indicazioni contro lo spione di turno. Vi ricordo sempre di dare una controllata mensile, anche quindicinale, alla vostra casa. Ogni 15 giorni, ogni mese, date sempre un controllo alla vostra casa. Speriamo che oggi non facciano come l'altra volta, praticamente l'altra volta, a settembre, mentre vi parlavo di radiospie e come scovarle, c'è stato un blackout sul server della radio. Blackout che praticamente ci ha resettato l'IP, ci ha resettato tutto, un casino della Madonna, però fortunatamente poi dopo siamo ritornati in diretta. Dopo circa una mezz'ora, chi c'era all'epoca forse ti ricorda anche di quello che è successo. Allora, dicevo, ricordiamoci sempre di dare una buona controllata alla nostra casa, tenendo conto che fino a qualche anno fa erano pochi i posti dove andare a controllare se si pensava di essere spiati. Oggi alle classiche prese elettriche, ai quadri elettrici, alle cassettine di derivazioni, elettrodomestici, prese telefoniche, si sono aggiunte altri posti, altre minacce dove il nostro scarafaggio spione può infilarsi. Quindi toccherà controllare centimetro per centimetro la nostra casa, compreso battiscopa, eventuali graffi strani sulla vernice dei muri e in alcuni casi anche il pavimento. Se notate alterazioni strane sul pavimento, dateci un'occhiata. Si infilano dappertutto, sono peggio delle blatte. In più, oltre al pavimento, agli oggetti metallici che, come sappiamo, sono conduttori di elettricità e possono essere usate come componenti in un sistema cablato, con il vantaggio di non essere individuabili dalle apparecchiature di bonifica in quanto non trasmettono onde radio. Quindi anche se avete il classico scanner che cerca le microspie, questo scanner non vi rivelerà un cazzo. Quindi occhio dappertutto, nelle maniglie delle porte, nel battiscopa dietro, se vedete che il battiscopa è un po' scostato dal muro, traballa, dateci un'occhiata, poi al limite ce lo rincollate, perché veramente ci sono delle cose che sono così piccole, delle microspie che sono così piccole che si possono nascondere dappertutto, anche nel videoregistratore, nella radiosveglia che ci avete sul comodino. Con la radiosveglia vi posso dare una cosa molto facile come dritta, perché siccome queste microspie o sono GSM, quindi hanno la classica scheda Vodafone, TIM, Wind, la maggior parte sono Vodafone e TIM che prestano il loro servizio agli scarafaggi, però la Wind anche non ha mai fatto non si è mai tirata indietro a fare le stesse puttanate. Allora, per la radio sveglia potrebbe essere facile accendere la radio, la tenete accesa, invece di ascoltare la musica dal lettore CD, di ascoltare la radio. Ricordatevi sempre di tenere il cellulare lontano dalla radio sveglia, nell'altra camera se è possibile, in cucina, lo tenete distante e ascoltatevi la radio. Se ci sono rumori strani, se sentite il classico rumore di quando suona il telefonino e dà fastidio alle casse, iniziate a preoccuparvi. Quindi la radiosveglia, dicevo, la radiosveglia, il videoregistratore, qualsiasi elettrodomestico che avete in casa, che avete sempre in stand-by, quello con la lucetta, tipo un televisore, lo stereo, la stampante. Tutto quello che avete in camere, nelle camere dove potete parlare, dategli una controllata. Dategli una controllata che non ci siano dei forellini strani sui vostri elettrodomestici, perché quel forellino strano potrebbe essere il buco da dove poi il microfono all'interno dell'apparecchio riesce a ricevere tutto quello che dicete voi. Che dicete, mamma mia che capra, che dite voi? E lo trasmette all'orecchio dello spione di turno. Allora, iniziamo a parlare un pochino delle microspie, quelle classiche, senza farvi, senza impaurirvi subito con quelli che sono i metodi, la new generation delle microspie, perché c'è roba che fa paura. Allora, partiamo da quella classica, quella che potete vedere anche sul blog di radiazione, le scatoline, queste scatoline in metallico, che altro non sono che sono dei telefonini, hanno lo stesso, sono in tutto e per tutto dei telefonini, insomma, che viene sostituita la parte con la tastiera, l'altoparlante, il microfono ce l'hanno. Viene tutto chiuso all'interno di una scatolina metallica. Se vedete la foto, si vede chiaramente quelle ritrovate nell'auto del compagno a Napoli. Praticamente all'interno di queste scatoline metalliche, una volta svitate le viti, si sfila questo pezzo e dove c'è chiusa tutta la scheda con i circuiti integrati. E dove c'è anche l'alloggio per la scheda Vodafone o TIM, dipende da chi gli ha fatto il favore in quel momento. Ricordiamo che anche per chi ha potuto leggere dai file scaricati da Anonymous dal sito della Polizia dello Stato, che la Vodafone e la TIM mandano spesso lettere. Agli organi di polizia, carabinieri, spioni di turno, Digos, insomma, mandano spesso aggiornamenti, offerte, insomma, anche diciamo degli aggiornamenti tecnici, sul valore, cioè, sulle schede. Quindi, Vodafone, TIM o come qualsiasi altro gestore telefonico sono alla pari degli sbirri, quindi tenetelo ben presente. Allora, si diceva, partiamo da queste cassettine metalliche all'interno di cui c'è questa scheda, e poi dalla cassettina normalmente parte un cavo di alimentazione che va a prendere la corrente dalla fonte dove loro vogliono posizionare la microspia. Dall'altro lato opposto ci sono degli alloggi su cui vanno dei jack, dei mini jack, praticamente dove vengono cablati sia il microfonino che praticamente per chi non ha mai visto una microspia, il microfonino è un pochino più grande della testa di uno spillo. Immaginate la testa di uno spillo con un buchino al centro, quelli sono i microfoni delle microspie. Quindi, cioè, non è tanto facile per chi non li conosce andarli a scoprire. Allora, dicevamo, parte il microfono, normalmente parte l'antennina, che è un'antennina che è una barretta di plastica che si piega pure. Lo scoprite subito che è un'antennina, perché sono i ragazzi di antennina che ora usano anche gli stereo e i mini compact che hanno la cassetta e il lettore CD, è un po' come ce l'ho io qua. Praticamente hanno quasi le stesse antennine. Quindi trovate o questa antennina, oppure come sempre nel caso, l'ultimo caso di Napoli, trovate un rilevatore GPS. Infatti quella di Napoli erano due scatoline, uno c'era il microfono e l'altra scatolina c'era il rilevatore GPS. Allora, praticamente loro come fanno ad ascoltarvi? Loro vi ascoltano facendo una chiamata al numero della scheda, automaticamente si attivano o il microfono o il GPS, dipende da loro, a loro cosa gli serve in quel momento. Quindi non è che siete sempre in ascolto, però comunque voi fate sempre conto che state sempre, che loro stanno sempre in ascolto, quindi parlate sempre chiaro. Se vi si rompe un lavello, se vi si rompe un lavello a casa, non dite facciamo partire i lavori può essere intrapreso, come è stato intrapreso da quei pezzi di media dalla procura di Torino, come facciamo partire i lavori, praticamente la storia del 7 maggio a Napoli e a Genova. Praticamente era capitato che si era rotto un lavello al 76A, si doveva aggiustare questo lavello e praticamente si è detto il giorno tot, che è lunedì, martedì, non mi ricordo nemmeno che giorno era, partono i lavori e dovevano essere i lavori per aggiustare il lavello. Guarda caso, quel giorno tot, il 7 maggio, è stato azzoppato quel pezzo di merda a Genova dell'amministratore delegato dell'attacco nucleare Roberto Di Norfi. Cosa è successo? I compagni a Napoli erano ascoltati dalle microspie che si trovavano all'interno sia del 76A che a Louis Michel, e praticamente questo iniziamo i lavori è stato intrapreso dalla magistratura come cazzo volevano loro. Quindi i lavori dovevano essere: iniziamo i lavori, azzoppiamo il pezzo di merda. E insomma, quindi questo, cioè, era giusto per farvi, noi non ci andiamo, cioè io non mi vado a sostituire alla magistratura, però un attimo per farvi capire bene o male come ragionano questi pezzi di merda, è il sul fatto di essere sempre chiari mentre parlate, quando specialmente sapete che potete essere ascoltati, parlate molto chiaramente, perché già parlando chiaramente questi pezzi di merda fanno gli incomprensibili nelle trascrizioni delle intercettazioni, facendo un taglio e un copia e incolla delle frasi che voi dite e ricomponendole come cazzo vogliono loro e per come gli servono a loro. Allora, prima di passare alla descrizione delle prossime microspie, come sono fatte, ci ascoltiamo brano dei Yes Who Send and Noi Button, il brano è Vast East, poi dopo si torna qua e vi do altre dritte sulle microspie. Zwei Dunkel sind unendlich, die Dummheit und das All. Kein Di-Di-Di-Di-Di-Di, nur Di-Di überall. Mehr Di-Di-Di-Di-Di-Di und Di-Di-Di zuhauf. Nur die Liebe und das Wetter hören nimmer auf. Wir fordern etwas Abwechslung in unserer Umlaufbahn. Endgültige Befreiung von Lügenstreckerbahn. Keine Gravitätlichkeiten schweben, fällt uns schwer. Und Schluss mit Kontinenten, tritt man der wieder her. Wir fordern mehr Di-Di-Di, mit unserem Di-Di-Charme, mehr Di-Di und Di-Di-Di, Birnen, Marzipan. Wir wollen noch mehr Schlüssel, Substanzen illegal. Kein Montagsreste essen, 5 Sterne minimal. Was für Bonus-Tipp. rocket from Paris to Berlin. Ein Kisten mit Champagner, Bio-Wodka, Bio-Gin. Ein Weltgebäude ohne Wände, so viel Platz muss sein. Einen Morgen ohne Kater, ohne Reihe, nicht allein. Wir fordern Sonnenuntergang fürs ganze Abendland. Tanzvermögen unerschöpflich, nach danach ist lang. Ohne Kritik, ihr und ihr seid von Kritik. Ein völlig leeren Himmel, angereichert mit Musik. Wir schreiben schwarze Zahlen in zu Toten für Kalkül. Wir fordern Fingerspitzen und das passende Gefühl. Tagsüber auf die Sterne, mehr Sterne überhaupt. Und heute schon die gestrigen zum Untertagebau. Was ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist. Möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. Wir wollen züngeln, zündeln, wandeln, tänzeln auf dem Rad. Polemische Verschlankungen für den ganzen Staat. Und keinen Kopfsalat. Gefängnis für Hans Mustermann, für Fälschung und Verrat. Wir fordern auch die Buchstaben zurück ins Alphabet, damit unser Eins in Babylon gestammelt sich versteht. Wir fordern die Musik muss endlich richtig laut, damit uns jemand glaubt. Was ist, ist, was nicht ist. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. E questi erano Astral Sand Neubaden, il brano What is Test. E allora, dicevamo delle microspie, abbiamo appena un attimo descritto la classica microspia, quella che potete trovare in qualsiasi luogo, sia nell'auto, sia a casa vostra, nelle prese elettriche, nelle ciabatte, ciabatte elettrica. Se avete una ciabatta elettrica, andate a controllare, sembra che sia la stessa. Fategli un segno di riconoscimento in un punto strano che sapete solo voi, perché la classica ciabatta elettrica può essere sostituita. Praticamente esistono queste microspie, praticamente è una ciabatta elettrica all'interno di cui c'è un alloggio per una scheda telefonica. E praticamente la vostra ciabatta elettrica, dove ci avete attaccato il computer, la vostra televisione, il vostro frigo, o vi asciugate i capelli, non lo so, qualsiasi cosa che potete fare con quella ciabatta elettrica che è nascosta dietro a un mobile, quindi non ci andate a controllare, perché oppure ve la dimenticate come è fatta. Ricordatevi bene sempre come sono fatte le vostre ciabatte elettriche, perché praticamente questa ciabatta è una microspia, funziona da ciabatta, però all'interno c'ha il tutto, c'ha il microchip, c'ha il rilevatore satellitare, c'ha l'alloggio per la scheda, il microfono e tutto. E questo è un altro tipo di microspia che è possibile trovare specialmente nelle case, nell'ufficio. Invece sempre nelle case prima si rideva, si scherzava, il fatto del bambolotto, della bambola. Può capitare che qualcuno ha un pupazzetto, qualcosa che è legato da quando era piccolo, ce l'ha appoggiato sul letto, sul comodino. Può capitare che quel pupazzetto si possa trasformare in microspia attraverso queste microspie. Praticamente vengono infilate all'interno dei pupazzi, praticamente gli viene fatto un forellino quasi invisibile all'orsacciotto di peluche o alla bambola con un vestito lungo, e quello là un pochino più facile per loro è più veloce da dove andare a infilare le microspie, e quindi automaticamente voi non lo sapete, ve lo abbraccerete pure, ma vi state abbracciando uno sbirro e non il vostro orsacciotto. Quindi andate a dare sempre un'occhiata, portate dal pediatra la vostra bambola, il vostro orsacciotto, dal veterinario. Invece per le microspie, sempre quelle che si trovano in casa, di andare a controllare dietro qualsiasi elettrodomestico, dietro al frigo, dietro la lavatrice, tutti i posti che voi non pensate, che voi pensate che siano innocui, possono essere possibili nemici della vostra privacy. Se avete impianti con le canaline, quindi impianti elettrici esterni, andate a controllare nelle canaline. Ma questo comunque sto parlando di una cosa anche un bel pecciotto di vecchi metodi, ma che comunque vengono usati tuttora. Capita molto spesso che quelli nelle canaline sono microspie così piccole che all'inizio nemmeno ci si fa spaccato. Lo dico per esperienza, perché praticamente qualche anno fa ne ho trovato una a casa, era posizionata dietro all'interruttore, al salvavite, quello là che praticamente salvavite, per chi non lo conosce, è quello che sta sotto al contatore di casa, quello che vi mette l'Enel o la società che vi fornisce energia elettrica. Dal contatore si passa a valle, dove ci sono montati sia un salvavite che dei magnetotermici o sezionatori, sezionatori e magnetotermici. Praticamente dietro normalmente stanno messi in una cassetta separata rispetto al contatore. C'è una cassetta esterna o interna con uno sportellino, e voi avete i vari interruttorini dove andare a chiudere le prese della casa, le luci della casa o tutto l'impianto. E praticamente andate a smontare là dietro, perché molto spesso sono nascoste là dietro. Dietro si smonta praticamente tutti questi affarini, salvavite, magnetotermico e sezionatore, sono agganciati su una barra di ferro. Se voi vedete nei lati delle barre, alle estremità delle barre di ferro ci sono delle viti. Voi andate a svitare le viti, vi tirate tutto il pezzo così. Andate a staccare prima la corrente dal contatore, mi raccomando, perché altrimenti ci rimanete attaccati. Tirate tutto il pezzo fuori e guardate bene dietro se c'è qualche cavo in più. Quelli praticamente che si nascondono sia nelle canaline elettriche, molto spesso negli interruttori o nelle prese dove c'è un bel massiccio accumulo di cavi. Sono praticamente le centraline sono bene o male grosse come un'unghia. Per chi affaccia sulla strada molto spesso non c'è bisogno nemmeno che sti bastardi mettono schede con microspie con la scheda telefonica, mettono direttamente un ricevitore che praticamente è grosso quanto un'unghia di un dito. Da una parte viene attaccata alla corrente elettrica, quindi c'è un positivo e un negativo. Dall'altro estremo, questa unghia con questo microchip sopra, praticamente a quell'altra estremità ci sono sia il microfono che l'antennina. Praticamente lì loro sono costretti a stare con un'auto e praticamente a sentire attraverso il trasmettitore cosa state dicendo in casa. La potete trovare anche in auto, è una cosa del genere, non è detto che la trovate solo a casa, mi ricordo, specialmente per chi affaccia sulla strada. Poi può essere anche se non conoscete bene il vostro vicino. Comunque, controllate sempre bene, controllate sempre bene. Appena trovate un qualcosa di elettronico che non c'ha un cazzo a che fare con il vostro impianto elettrico, staccatelo subito. Allora, ora passiamo dalla classica microspia, passiamo a quella un'altra, che è la cimice da auto e casa. No, la cimice da auto e casa l'abbiamo detta, quella dei microfoni laser. Praticamente questo metodo di spionaggio consiste in un microfono che funziona trasmettendo un fascio invisibile, IR, infrarossi sarebbe, contro la finestra della vostra stanza. Esso capta le vibrazioni dei discorsi o di qualsiasi cosa che voi dite o fate in casa. E tutto quello che voi dite o fate in casa si trasforma in un fascio che viene ripreso da una ricevente, che trasforma praticamente le vibrazioni del vetro in segnali elettronici. Il discorso viene filtrato, rilevato e registrato. Normalmente l'apparecchio è nascosto all'interno di una macchina fotografica reflex a singolo obiettivo, quindi affacciatevi dalla vostra finestra e se vedete qualche macchina fotografica che vi guardi, con un cannocciale forse ispezionate meglio tutta la zona che si affaccia, che c'è davanti alla vostra finestra. Quindi date bene una controllata, non andate a farvi i cazzi dell'altra gente che fanno delle loro case, però nocciata bene una macchina, lo ricordo, normalmente viene usata questa macchina fotografica reflex con il singolo obiettivo. Invece c'è un'altra classica cimice che voi non sapete, ma la maggior parte di voi c'ha in casa, è il cordless, il telefono cordless. In questo caso non c'è bisogno che vi entrino in casa, perché la spia ce l'avete voi stessi acquistando un telefono cordless. I cordless possono facilmente trasmettere le vostre conversazioni a chiunque sia dotato di uno scanner classico come quello in uso da anni nella polizia e che funziona solo a qualche chilometro di distanza. Tali telefoni, ad eccezione di quelli a 900 MHz, trasmettono su una banda tra i 45.00 e 47.00 MHz. Se il cordless è in uso in quel momento, nello stesso raggio d'azione dello scanner, che può essere anche ampliato attraverso un'antenna a bassa frequenza, la vostra conversazione telefonica è intercettata. Invece, sempre per quanto riguarda la casa, gli oggetti che si possono avere in casa e che possono trasformarsi in microspie oppure in ufficio, in giro, c'è quello del monitoraggio invisibile del PC. Praticamente ci sono questi programmini che voi non rileverete mai sul vostro computer, ma che praticamente riescono a captare tutto quello che scrivete sulla tastiera, tutto quello che dite quando state davanti al computer, la vostra webcam del vostro portatile si trasforma nella webcam che della questura. Ma non solo quella del portatile, ma anche quella del fisso. Praticamente cosa consiste? Praticamente questi programmi monitorizzano l'attività del vostro computer in tempo reale, registra la lista dei siti visitati e registra tutte le email ricevute e inviate dal vostro PC. Consente o nega il funzionamento di alcuni programmi ed impedisce anche l'accesso ad alcuni siti. PC Control, questo è il nome del programma, ma ce n'è un altro simile che si chiama Keylogger, è completamente invisibile. Questi due programmi, sia PC Control che Keylogger, vengono installati in pochi secondi sul vostro PC attraverso una penna USB. Attraverso quella penna il vostro spione di turno vi controlla secondo per secondo. Il programma effettua anche aggiornamenti che voi non visualizzerete mai. Praticamente lo spirito vi entra in casa, vi accende il computer, infila questa chiavetta USB, vi installa questo programma, e poi una volta che ha installato il programma se ne va, e poi dalla questura ascoltano tutto quello che voi dite nelle vicinanze del computer. Praticamente se state scrivendo qualcosa al computer, gli appare lo schermo in questura automaticamente, mentre voi scrivete gli appare quello che state scrivendo. La webcam, l'ho detto, si trasforma nella telecamera della questura, e tutto ciò non può essere rilevato, cioè nel senso che se andate nel pannello di controllo del vostro computer, andando nei programmi installati, il programma PC Control OK Logger non vi risulterà mai e poi mai. Quindi ogni tanto è buono sempre dare una bella pulita al computer, ma nel senso di una bella pulita, una bella formattata completa, prima di fare la reinstallazione del sistema operativo e dei programmi, caricateci sopra i giochi, riempite l'hard disk di giochi, film, cioè praticamente dovete riempirlo da scoppiare. Una volta riempito lo ricancellate, riformattate e poi di nuovo un'altra volta prendete e fate partire l'installazione del sistema operativo e tutto. Ovviamente è una rottura di coglioni, però chi ci viene a non essere spiato è bene che lo faccia. Ora, con oggi finiamo qui la spiegazione sulle microspie. Vi lascio con l'ultimo brano di The Wire, che è il Too Late, come è stato troppo tardi per gli spiriti l'altro giorno, che non ce l'hanno fatto a smontare la microspia, è stato smontato da qualcun altro. E l'appuntamento per radiazione, con radiazione e per lunedì prossimo, vi ricordo che da lunedì prossimo le dirette d'azione vanno dalle 17 alle 19, non più dalle 16 alle 18, quindi sia lunedì che venerdì ore 17 e fine ore 19 o all'incirca, se ci abbiamo poco da dire si può finire anche prima, tanto qua non siamo stipendiati né io né Marcello, che viene lunedì, quindi quando ci va di finire, oppure se vogliamo durare anche oltre le due ore classiche, ci vediamo. Allora, appuntamento per le 17, dalle 17 alle 19 dalla prossima settimana. Vi ricordo che da lunedì, che lunedì ritorna la lettura con Marcello, il libro Antracite, l'abbiamo iniziato la settimana scorsa, ora lo continueremo a leggere. Insomma, lunedì l'abbiamo detto, il cambio di appuntamenti l'abbiamo detto. Ripetiamo i contatti utili per radiazione, che è radiazione@autistici.org per quanto riguarda la mail, se volete mandare comunicati, scritti, locandine, iniziative, tutto quello, consigli, se volete mandarmi a fare il culo, fate voi. La mail è radiazione@autistici.org. Invece per il blog, dove potete andare a rileggere tutte le notizie che sono state date durante le dirette d'azione, il blog è radiazione.noblogs.org. Ricordo che sul blog potete andare anche a riascoltarvi tutte le dirette d'azione precedenti fino a due settimane fa, perché si è iniziato da due settimane il discorso di mettere il podcast delle dirette, e questo è avvenuto anche sotto consiglio, perché non ci avrei mai pensato, cioè ci stavo pensando però non mi attirava tanto, però ovviamente siccome ci sono dei compagni che hanno chiesto, non più di uno, cioè più di uno voglio, hanno chiesto se si metteva un podcast, visto che ci avevano da lavorare, ci avevano da fare i cazzi propri, dovevano mangiare, boom. Allora, sulla categoria, attraverso la categoria, ascolta le dirette d'azione, senza che vi faccio una testa così, dalla homepage del blog di radiazione.noblogs.org potete riascoltare tutte le dirette d'azione e da stasera anche quella di oggi. Quindi abbiamo dato blog, abbiamo dato la mail, abbiamo dato il nuovo appuntamento dalle 17 alle 19 da lunedì, del lunedì e del venerdì. Io vi saluto con un brano dei Wire, lo ripeto, Too Late, bye bye. Oh, it's a mess. Radio Aqua.